Siamo nati schiavi, cresciuti a schiavi, ultimi agli ultimi banchi. Billionaires, money, numeri primi tra gli altri. No che non puoi ammanettarci perché siamo in tanti. Prega per noi. Collane firmano condanne fra nomi sull'ame. Morire senza averli mai contati, no, non si può fare. Un neofrasi sta ancora a fare, cerca un affare, meglio non averci a che fare. Qualsiasi cosa sei meglio di niente, sei qualsiasi cosa quando non hai niente la pensi di fare. Prega per noi, che non abbiamo spinte, siamo veri eroi. C'è chi si salva prima, c'è chi si salva prima o poi. Se tutto passa prima o poi, guarda il tuo fratellino sarà uguale a te. Meglio se lo tieni fuori, meglio se lo tiri fuori da ciò che ha rovinato te. Parlo di furti e di smazzo, ma non ho mai detto sia la cosa giusta. Non mi son mai fatto una busta. Non recito un personaggio che possa piacere all'industria. Sto ancora con chi mi chiede quando è che mi vede. Un programma alla tele, con chi non programma ma ottiene. Con chi lavora e con chi spera gli vada bene tutte le sere. No. Prega per noi, prega per noi. Prega per noi, prega per noi. No. Prega per noi, prega per noi. Prega per noi, prega per noi. Vogliamo soltanto quello che ci spetta. Prega per noi, dare a chi amiamo una vita più bella. Prega per noi, per ogni fra che oggi mangia di fretta e vuole pigliarsi una fetta da schiavo al re, dal suolo fino alla vetta. Prega per noi, prega per noi. Prega per noi, prega per noi. No. Prega per noi. Per noi, prega per noi, prega per noi. Siamo nati schiavi, figli di schiavi, cresciuti a schiavi, ultimi agli ultimi banchi, ultimi a scuola fra primi tra gli altri, numeri primi tra gli altri. No che non puoi manettarci perché siamo in tanti. No. E siamo tutti stanchi, siamo tutti schiavi, non puoi più fermarci. Prega per noi, prega per noi, prega per noi, prega per noi, prega per noi, prega per noi, prega per noi, prega per noi, prega per noi, prega per noi, prega per noi.